Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Si chiama Così in terra come in cielo. È il nuovo libro di Don Andrea Gallo, il prete genovese, quasi 82 anni, al fianco degli ultimi da una vita. Balzato spesso agli onori della cronaca per le sue posizioni a volte in controtendenza rispetto alle indicazioni della Chiesa, che però ribadisce di amare tanto. Lo abbiamo intervistato. Dobbiamo ogni giorno, ciascuno di noi, parlo soprattutto chi vuole seguire Gesù e tutti gli uomini e le donne di buona volontà, perseguire il bene comune, cioè la pace, la giustizia, la solidarietà. Quando è nata la sua vocazione? Quando ha incontrato Gesù? E a 19 anni incontro un figlio di Don Bosco, e il quale mi parla di Don Bosco, con i ragazzi, le squadrette, lo sport, e io ho visto il rapporto educativo che aveva questo giovane prete nei confronti dei ragazzi. Ho detto, ma come mai io sono stato educato così malamente, condizionato con dei miti falsi, chissà che anch'io possa diventare un figlio di Don Bosco, prete, per essere un educatore. E a 20 anni entro al noviziato. Gesù mi ha dato il suo biglietto da visita. Sono venuto per servire e non per essere servito. E io ho avuto sempre questa mia massima fondamentale. Come si articola una sua giornata tipo? Avendo noi da anni e anni l'unità di strada, avendo i ragazzi, avendo il centro storico meraviglioso, il porto, e quindi io sono un uomo da by night, cioè un uomo notturno, e quindi direi che verso le 10 mi si aprono gli occhi. Ancora ieri sera ero con un tossicomane di 38 anni, 10 anni di eroina, 10 anni di alcol, bravo cuoco, con la mamma, la fidanzata, e allora abbiamo fatto fino a tardi. Minimo vado a letto ormai verso le 5 di mattina, saluto le transessuali, saluto le ultime prostitute, poi io sono conosciuto, nessuno ha mai alzato un dito su di me, e poi via via, poi io ho una decina di comunità, e allora a volte ho i turni da una comunità all'altra, ho qualche magagna fisica, però posso dire che il Signore benedetto mi dà ancora la salute. A volte non credo neppure a me stesso che questa salute mi abbia seguito fino a 81 anni e mezzo. Don Andrea, lei nel libro a un certo punto scrive: molti mi chiedono di andarmene dalla Chiesa visto che non sono d'accordo su niente. Ma lo sai che da anni professionisti, ma guarda che io ho una bella villetta, la vai, tu ormai sei stretto nella Chiesa. No, io sono a casa mia nella Chiesa. Io ho dato la mia adesione nella casa. Chiesa vuol dire assemblea. Conosco la storia della Chiesa, oggi sono rose e fiori. Questi litigi di qui tra Bertone, Boffo e Ruini, facciamo, ormai è una storia. E allora io sono a casa mia. 5 cardinali, io non ho mai ricevuto neppure una munizione canonica. Ecco, tra i richiami c'è stato anche quello quando ha deciso di votare per il referendum. C'era addirittura il cardinal Bertone, che tra l'altro è il mio compagno di università. In quel referendum per la fecondazione assistita si poteva votare sì, no. Tutt'al più, se uno è dubbioso, lascia la scheda bianca. Ma non va a infisciare il cuore, che tristezza. E una volta il cardinale mi incontra dopo, tant'è se è andata a votare. Ma eminenza, è mio dovere. E lui mi ha detto, sì, ma è una questione delicata. Appunto perché era delicata. Col concilio, nella nostra Santa Madre Chiesa, che io amo tanto, il primato della coscienza personale è dottrina certa. La Chiesa e i Vescovi hanno diritto, anzi il dovere è il diritto, di esporre, di proporre. Don Andrea, lei nel libro racconta anche degli episodi curiosi. Gliene cito solo uno, la partecipazione a una rapina. E perché io sono in giro di notte, scherzando, mi dicono, oh, ciao, no, mi conoscono tu. E poi uno scherzando dice, i preti non lavorano mai. No, era già qualche anno fa. Ah, sì? Allora io vengo con te e ti aiuto a caricare. Le hanno affibbiato tantissime etichette di ogni tipo. Ma qual è quella che le piace di più, quella in cui si riconosce? Angelicamente anarchico. Che è poi il titolo anche di un altro suo libro. È la mia università della strada. Io forse ho insegnato qualche dottrina, qualche scuola, però io, la mia gente, gli ultimi hanno insegnato la vita. Angelicamente anarchico mi sembra la cosa più bella, non perché sono esente da peccato, la scelta della non violenza. Questo è angelicamente, questo senso. Anarchico perché da cittadino del mondo, dove c'è un sorpruso, immediatamente sono dalla parte dell'oppresso, del represso, dell'ultimo, del senza voce. E del resto, se vedo la vita di Gesù, angelicamente lui lo era anche nella sua quotidianità. Se non era anarchico, altro che quando incontro alcuni cristiani, dice: sai, tu sei un po' esagerato, io sono un cristiano moderato. Cosa sei, cristiano moderato? E pensa, Gesù è stato tanto moderato che i poteri l'hanno messo in croce. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Oggi ci soffermeremo su un aspetto del fenomeno dell'immigrazione, tema contrastato. Non siamo certo giunti al termine della riflessione, ci permettiamo di portare qualche piccolo mattone per la sintesi finale, che non sarà certo a breve termine. Una notizia sconvolgente, frutto di un'attenta ricerca universitaria presentata a metà gennaio sul più diffuso quotidiano nazionale. I titoli: in Italia 2000 spose e bambini, e quindi nozze imposte tra indiani, pakistani, marocchini. Questi sono i padri, i padroni che l'Occidente non può certo tollerare. Questi matrimoni sommersi, per lo più di stranieri, saranno in futuro una vera emergenza. Ragazzine di 16 anni costrette a sposare uomini già scelti in precedenza dai loro padri. È ovvio che già si aprono dei conflitti ancora latenti, ma tra breve deflagranti. Se si pensa che in Inghilterra, nella città di Bradford, in un solo anno sono sparite 200 ragazzine tra 16 e 17 anni, figlie di immigrati. Poi ritornano da noi con il marito imposto e il rischio è grande. Ragazze che studiano da noi, che crescono da noi, che assumono una certa cultura, ma che nella scelta fondamentale del matrimonio sono costrette a vivere secondo tradizioni familiari certamente da noi impossibili da accettare. Alcune scappano dalla famiglia che li obbliga a sposare certi uomini sconosciuti, altre arrivano a patteggiare con i genitori almeno su una rosa di uomini tra cui poter scegliere il meno peggio. Allora, occorre capire se veramente non c'è uno scontro di civiltà per noi difficilmente tollerabile. Forse quando si dice identità cristiana dell'Europa si intende anche uguaglianza tra uomo e donna e parità di diritti e doveri per la donna e anche la libertà di scegliere il compagno della propria vita.